Siamo al telefono con Piero Mantengoli, direttore artistico, nonché uno dei soci fondatori di A Cielo Aperto. Ciao Piero, grazie mille di essere qui con noi su Radio Città Fugico. Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, A Cielo Aperto arriva alla sua decima edizione, anche se gli ultimi 2 anni sono stati un po' complessi. Come vi sentite raggiungendo questo che è un traguardo importante? Sì, ci sentiamo molto felici perché da un progetto nato da 4 amici con determinazione e passione siamo riusciti anno dopo anno a crescere, a consolidarci e poter fare il nostro evento, poter realizzare il nostro evento dopo 10 anni, dopo aver passato 2 anni comunque di pandemia in cui per fortuna siamo riusciti comunque a realizzare la nostra rassegna. Per noi è una cosa molto importante. Ci rende felici, però ci ha caricato anche di responsabilità verso il pubblico che ci segue e ci ha dato fiducia per tutti questi anni. Che a cielo aperto si è preso anche il suo spazio come festival ormai molto importante non solo per la Romagna ma anche per tutta Italia, considerando i nomi internazionali che arrivano. E a proposito di spazi, quest'anno, oltre alla Rocca Malatestiana di Cesena e a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, si aggiunge una terza location. Ce ne vuoi parlare? Sì, in realtà in questa edizione se ne aggiungono due per la precisione, che sono quella del 26 maggio a Savignano sul Rubicone, nella Golena, e andremo a inaugurare, diciamo, la nostra rassegna giovedì 26 maggio in questa nuova location sul fiume, qui ci saranno i Giardini di Miró e i Vanishing Twin. E questa è la prima location, mentre la seconda location che andremo a utilizzare nuova quest'anno è quella al Parco Fluviale di Santa Sofia, diciamo che è una location che continua col nostro trend di ambiente ecosostenibile, è immersa nella natura, e in questa venue andremo a realizzare lo show di Brunori alle 18 per provare ad esaltare, ad affiancare, diciamo, lo show di Brunori con i colori della natura e del tramonto. Perfetto, abbiamo quindi iniziato a vedere alcuni nomi. Abbiamo visto che c'è i Vanishing Twin Giardini di Miró il 26 maggio. Vuoi farci un attimo un riassunto, un po' a grandi linee, di quali saranno gli eventi della rassegna? Sì, allora, innanzitutto inauguriamo con una cosa un po' insolita, che è questo sabato, con una preview. Che è un talk. In questo talk saranno presenti giornalisti di Rumore e Rolling Stone, Soundwall, e il talk dal tema dalle fanzine all'informazione liquida, come è cambiata l'informazione, l'approccio musicale in questi anni, in questi ultimi anni. Andando a vedere quali sono i nuovi approcci all'ascolto e quali possono essere le opportunità e i pericoli di magari farsi trasportare solo dall'algoritmo, piuttosto invece a una ricerca attiva su chi cercava di documentarsi la musica tramite fanzine o riviste, eccetera, eccetera. Sarà insomma una preview interessante. È questo sabato qui a Cesena, e questo progetto, questo talk fa parte del progetto solido che abbiamo avviato come rete dei festival con i nostri amici di Ferrara Sotto le Stelle e Artivive Soliera, che sono due festival importanti sempre della nostra regione che condividono questo progetto con noi da 2 annetti. Poi con gli eventi Grossi. andiamo alla Rocca, l'inaugurazione della Rocca Malatestiana. La Rocca è la location, diciamo, da cui è nata a cielo aperto. Siamo con Emily and the Sniffer, band australiana che attendiamo molto calore. Vediamo l'ora di poter vedere lo show. Questo è il primo concerto a Cesena. Poi passiamo al 12 luglio con il collettivo Afrobeat dei Cocoroco. La nota che mi sento di dire è che questo è un recupero di anno scorso, nel senso che noi in realtà realtà avevamo messo in line up Cocoroco anche l'anno scorso, ma per restrizioni abbiamo dovuto annullare l'evento e quest'anno siamo andati a recuperarlo. Poi passiamo al 27 luglio, in cui ci sarà l'artista francese Metzerg, diciamo, è considerato un nuovo prodigio della French Touch. Poi passiamo al 29 luglio, che ci sono i New Genea, che presenteranno il loro nuovo album. È un ritorno al festival, nel senso che sono stati in line up già nel 2019. Poi passiamo al 2 agosto a Villa Torlonia, in cui ci saranno i Flaming Lips, band della scena psichedelica fondamentale, cui siamo felicissimi di poterli finalmente ospitare. E il giorno dopo c'è la data di Ben Harper, che diciamo è un recupero del 2020, nel senso che Ben Harper era stato fissato nell'edizione 2020, ma per cause note gli ultimi 2 anni di pandemia questa data è andata man mano spostandosi ogni anno. Si torna alla Rocca Malatestiana con il concerto di Cosmo. Per ultimo si chiude il 28 agosto a Santa Sofia, al Parco Fluviale, dopo aver fatto un percorso, una camminata lungo il fiume, concerto di Bruno Rissas alle 6. Quindi un calendario ricco, variegato, soprattutto negli stili e anche nelle nazionalità, perché c'è un sacco di gente internazionale. Esattamente, infatti quello che mi sento di dire è la cosa importante è che finalmente c'è un ritorno in un numero consolidati internazionali nelle NAP. Nel 2020 qualche internazionale siamo riusciti a farli, l'anno scorso ce ne sono saltati 2, quindi quest'anno la buona notizia è che finalmente ci saranno gli internazionali. Perfetto, allora per celebrare il ritorno delle band straniere ci ascoltiamo un brano di Emil and the Sniffers, che sono quelli che il 16 giugno apriranno un po', diciamo, la parte estiva dei concerti di A Cielo Aperto. Ce li ascoltiamo e poi torniamo da te. Il claim, il motto, diciamo, di questa edizione di A Cielo Aperto è Together Sounds Better. Cosa significa per voi e come mai l'avete scelto? Sì, diciamo che dentro questo claim che abbiamo pensato per la 10ª edizione ci ritroviamo dentro tutti i nostri valori e l'attitudine con la quale ci approcciamo nella preparazione e nella realizzazione dell'evento. Ci piace che le persone che vengono a trovarci si possano sentire a proprio agio con noi, come noi ci sentiamo a nostro agio negli eventi che organizziamo, stando in mezzo alle persone. Ci piace che le persone, che possiamo unire le persone come in una sorta di dimensione parallela, nel senso che il concerto chiaramente è importantissimo, però ci piace che le persone possano vivere anche le sfumature che ci sono vicino a un concerto durante l'evento. Allora, A Cielo Aperto ha un sacco di qualità, perché intanto delle peculiarità che sono, per esempio, l'utilizzo, diciamo, tra virgolette, di luoghi particolari per il concerto, perché la Rocca Malatestiana in centro a Cesena, dentro una rocca medievale, Villa Torlonia a San Mauro, comunque una villa, adesso non so, rinascimentale, comunque un posto particolare rispetto ai grandi campi cui siamo abituati magari per i concertoni immensi, per i festivaloni. Un avvicinamento alla natura. Ecco, però, se tu dovessi dire qual è secondo te il punto forte di A Cielo Aperto per i nostri ascoltatori? Guarda, mi sento di dire che già quello che hai accennato tu secondo me è un punto di forza, nel senso che l'unicità, la forte identità e esclusività di questi luoghi e chiaramente penso anche l'identità musicale che la nostra rassegna ha. Chiaramente noi siamo sempre in evoluzione e si cerca di non farsi trascinare dalle mode, però penso che questa unicità delle location, questa identità e esclusività, secondo noi può essere un forte elemento che caratterizza la nostra rassegna. Perfetto, direi che a questo punto abbiamo invogliato le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a scoprire di più sicuramente su A Cielo Aperto, oltre alle varie band che ci sono, che già sono un richiamo fortissimo. A questo punto, per salutarci, chiederei a te la band con cui chiudere questa intervista e darci appuntamento al festival. Chiuderei con un pezzo dei Flaming Lips. Allora, ci ascoltiamo i Flaming Lips. Piero, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie a tutti. Ricordiamo magari il sito di A Cielo Aperto, che è acieloaperto.it, così trovate tutte le informazioni su biglietti, location, band, tutto quello che vi interessa. E grazie mille. Grazie a tutti, grazie a te.